vedere. Come sì? In casa sono. In casa sì. Sta arrivando una bomba. Una bomba. Davvero? Davvero? Va bene, dai, ti faccio i miei auguri, ci sentiamo domani che ce lo rinnoviamo. Grappa. Yes, allora noi mettiamo un altro puro di rossore, di nocche, almeno facciamo ancora di più gli auguri. Auguri a te e alla tua, come si chiama, adesso non mi ricordo. 25, salute e fanno uno di, anche per me di Brindisi, ciao a tu, a domani, ciao ciao. Ma 25, dai, saluti a te e tutti, tutti. Ciao. Ah, non fai metto, già ce l'ho a posto, eh. Auguri a tutti, auguri, auguri, non mi fate troppo che fa male, ciao, vai a preparare, ciao. Ok, ciccio, noi me ne devo con una cazzata, dai, ciccio. Yeah. Ma cattoni. Mazzoli di fiori che vieta la montagna e va a bere o scivaglia, io lo posso regalare. Chi c'è qua? Tonio, tu sei? Mettimi, cazzo!